Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Tutti condannati, ergastolo al killer e ai mandanti dell'omicidio di Francesco Fortugno, il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, ucciso nel 2005. Aeroporto in difficoltà in mezzo Europa per le nevicate di queste ore, ritardi a Malpensa e Orio al serio, chiuso il porto di Genova. Nuove proteste in Inghilterra contro gli operai italiani, Sacconi non si mette in gioco la libera circolazione dei lavoratori, altrimenti salta tutto. La crisi si combatte con le regole, non con il debito pubblico, lo dice il ministro dell'economia Giulio Tremonti a Radio 24. Abbiamo bruciato per noi, ecco la confessione dei tre che hanno dato fuoco ad un indiano che dormiva su una panchina. Mai così in alto da 11 anni, i rinnovi dei contratti spingono le retribuzioni, cresciute nel 2008 del 3,5%. Una buona giornata e un buon inizio di settimana da Simone Spezia e da Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large, che apriamo dunque andando in Calabria. Andiamo in Calabria perché questa mattina c'è stata la sentenza di primo grado sul delitto Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale calabrese, lo ricorderete, ucciso il 16 ottobre del 2005 a Locri. Filippo Veltri, buongiorno. Quali sono dunque le decisioni della Corte d'Assise? Buongiorno, allora i giudici della Corte d'Assise di Locri hanno condannato all'ergastolo come presunti mandanti Alessandro e Giuseppe Marcianò, che sono padre e figlio, e poi Salvatore Ritorto, che è considerato l'esecutore materiale del delitto, e Domenico Audino. Sostanzialmente la Corte d'Assise di Locri ha accolto in maniera quasi integrale, tranne l'aggravante dell'associazione mafiosa, le richieste che erano state fatte dalla pubblica accusa. Una settimana fa i giudici si erano ritirati in Camera di Consiglio dopo che infatti il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, direttamente lui, Giuseppe Pignatone, aveva avanzato le richieste al termine della lunga requisitoria che avevano fatto i due PM della DDA di Reggio Calabria. La sentenza, questo forse è il dato più significativo, è stata letta sostanzialmente in un'aula in cui non c'era nessuno, qualche familiare degli imputati, la vedova, l'onorevole Maria Grazia Laganà, l'onorevole Beppe Lumia, ma era praticamente assente la società civile, anche diciamo qualsiasi elemento che potesse far ritornare indietro a quei 2 anni e mezzo a cui avete fatto cenno voi subito dopo l'omicidio di Fortugno. Grazie a Filippo Veltri, collegato con noi da Catanzaro, e su questo argomento sentiamo il commento di Daniele Biacchessi. Lo avevano ucciso in modo plateale, davanti a tutti, alla presenza di un numero notevole di testimoni, come un monito, un avvertimento diretto a tutti quelli che volevano rompere il patto di omertà imposto dalle cosche mafiose di Locri alla popolazione. Francesco Fortugno era un uomo delle istituzioni e voleva il cambiamento, intendeva cioè la politica come servizio, non come mera gestione del potere. A quel patto criminale tra 'ndrangheta e gangli vitali delle istituzioni, Fortugno si era ribellato e per questo è stato assassinato. Oggi, per quell'omicidio consumato 3 anni e mezzo fa, vi è una giustizia. Ergastolo a mandanti ed esecutori, recita così la sentenza di primo grado. Ma ad assistere alla lettura della sentenza c'era poca gente, segno che il grande movimento di indignazione popolare seguito all'assassinio di Fortugno, con migliaia tra ragazzi e sindaci in piazza, si è dissolto in poco tempo. Nel silenzio la giustizia sta facendo il suo corso, ma per la società civile ora c'è una sfida ancora più importante: mantenere alta la guardia, perché le piovre hanno 1000 tentacoli e non basta certo una sentenza giusta per sconfiggerle in modo definitivo. Anche se, come scriveva Giovanni Falcone, la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una sua fine. Adesso restiamo in Calabria, ma per parlare di tutt'altro argomento iniziamo ad affrontare la questione maltempo, innanzitutto con la cronaca appunto dalla Calabria, dove sono state riaperte le 2 strade nel Catanzarese che erano state chiuse per gli allagamenti provocati dalla pioggia, la cui intensità nelle ultime ore per fortuna sembra attenuarsi. Ma il maltempo invece interessa con forti nevicate soprattutto le regioni del nord. È stato un risveglio imbiancato quello di questa mattina per molte città del nord. Neve su gran parte della Lombardia, del Piemonte e della Liguria. Neve che, contrariamente a quanto successo ieri, oggi ha attaccato. Disagi e rallentamenti, ma nessuna situazione critica su molte strade e autostrade dove è scattato il piano antineve. A Genova, a causa del forte vento, sono stati chiusi i terminali del porto cittadino e di Voltri. Viabilità molto difficoltosa in Val Brembana, nella Bergamasca, mentre a Milano Milano a soffrire è il centro città, a causa delle enormi pozzanghere che, vista la temperatura sopra lo zero, si sono create in molti piazzali e incroci. Piano neve anche negli aeroporti, alle prese con le operazioni di de-snowing e de-icing. Nessuna cancellazione a Torino Caselle, flusso aereo ridotto invece negli scali lombardi, da Orio al Serio due voli cancellati, a Malpensa e Linate rispettivamente 8 e 10 voli annullati. Al centro è caduto qualche fiocco solo in Toscana e sulle coste laziali, interrotti i collegamenti marittimi tra Piombino e l'isola d'Elba. Situazione in miglioramento al sud, dove le piogge oggi daranno un po' di tregua alla Calabria e alle prese con il ripristino della viabilità fortemente compromessa dalle frane e dagli smottamenti degli ultimi giorni. Nel Cosentino in particolare sono al lavoro vigili del fuoco, militari e personale della protezione civile. La A3 Salerno-Reggio Calabria resta chiusa tra Cosenza Nord e Falerna, da qui a Villa San Giovanni invece è stata riaperta. La neve è caduta anche sulla Sardegna con relativi disagi agli aeroporti di Olbia e Cagliari. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E come vi dicevamo nei titoli, non è solo l'Italia che soffre. Parigi si è svegliata questa mattina sotto un manto bianco. Sulle strade che portano alla capitale francese ci sono decine di chilometri di file e ci sono difficoltà anche qua negli aeroporti. Allo scalo parigino di Orly il primo aereo è potuto decollare alle 9 del mattino. A Charles de Gaulle i ritardi e gli annullamenti sono moltissimi. E non va meglio neanche a Londra, dove una vera e propria tormenta sta paralizzando la città. Il trasporto pubblico, con eccezione di qualche tratto della metropolitana, è stato sospeso. Al centro di Londra ci sono fino a 20 centimetri di neve, molta di più naturalmente in periferia. Ritardi e cancellazioni anche in questo caso di voli a Heathrow. E tra poco tra l'altro torneremo in Inghilterra per parlare della vicenda della protesta contro l'azienda italiana che ha ottenuto un appalto dalla Total. Adesso la cronaca italiana con Nettuno il giorno dopo. Sabato notte, lo ricorderete, tre ragazzi al termine di una serata a base di alcol hanno deciso di cospargere di benzina e dare fuoco ad un indiano che dormiva su una panchina della stazione. Come si risveglia oggi la cittadina sul litorale romano? Paola Cavadi, tu sei là. Che cosa vedi, che cosa ci puoi raccontare? Sì, buongiorno. Qui a Nettuno c'è sostanzialmente sgomento dopo quello che è successo l'altro ieri notte. La gente è incredula che dei ragazzi dessero fuoco a un immigrato e per di più solo per divertimento. È un fatto che crea orrore. Qui dove mi trovo, alla stazione di Nettuno, accanto alla panchina dell'atrio dove dormiva il cittadino indiano, le macchie di sangue e benzina sono state ripulite alla buona, ma sono sostanzialmente ancora visibili. E la notte dei treni si fermano qui sui binari della stazione in sosta per la notte, è lì che di solito si riparano i senza tetto, ma sabato notte la vittima dell'aggressione, Singh, non deve essere riuscita ad aprire il treno, probabilmente aprire le porte del treno, per questo forse ha deciso di stendersi su quella panchina. Il movente dell'aggressione non era il razzismo, sembra ormai essere assodato, ma non consola certo la circostanza che i ragazzi, che nella notte, lo ricordiamo, sono stati trasferiti a Roma e a Velletri in carcere, lo abbiano fatto solo per noia. Certo, non giustifica il gesto, ma c'è da dire che la vita qui a Nettuno d'inverno e per un ragazzo non offre quasi niente, qualche pub e cinema che però si trovano ad Anzio, a circa 3 km di distanza. L'amministrazione precedente per di più ha chiuso l'unico teatro della città che sorgeva proprio di fronte alla stazione. Abbiamo intervistato il sindaco di Nettuno, Alessio Chiavetta, sentiamolo. Sinceramente ci ha lasciato sgomenti perché non è, diciamo, non è un episodio che è riconducibile a un comportamento normale, soprattutto per la nostra città. Inizialmente si era pensato a una matrice razzista, xenofoba, per fortuna non è quello, perché comunque l'integrazione delle comunità straniere sul nostro territorio è abbastanza evidente, abbiamo più di 100 etnie presenti sul nostro territorio. Che tipo di attività svolgono nell'economia generale di Nettuno? Ma sono molto integrate nel tessuto produttivo, soprattutto nel settore dell'agricoltura e della cantieristica, quindi soprattutto però nella florovivaistica, ad esempio quella della comunità indiana in particolare. E però c'è anche una integrazione dal punto di vista sociale, perché tutte le associazioni di queste comunità partecipano attivamente alla vita sociale della città con iniziative culturali anche per l'integrazione. Da questo punto di vista non era giustificabile o comunque riconducibile a un comportamento normale. Poi effettivamente quello che è uscito fuori è un fenomeno altrettanto inquietante che ci deve portare a una riflessione. Grazie dunque Paola Cavadi, notizia appena arrivata dall'India, il Dalai Lama, il capo spirituale del Tibet in esilio, è stato ricoverato in ospedale a Nuova Delhi dopo aver accusato un dolore ad un braccio, lo ha annunciato il suo portavoce. E noi voltiamo decisamente pagina, sabato l'esordio dell'Italia nel Sei Nazioni di rugby, da oggi faremo un punto ogni giorno in extra large sulle nostre avversarie. E allora iniziamo dalla vincente dell'anno scorso, sia il Galles. Giacomo Bagnasco. Eh sì, il Galles è la vincitrice dell'anno scorso, ha vinto facendo il grande slam, cioè aggiudicandosi tutte e cinque le partite, ed è anche la favorita di quest'anno. Nella passata edizione si è vista la mano del nuovo allenatore, che è un neozelandese, si chiama Warren Gatland, che ha conseguito grandi successi anche in passato, e la squadra ha ritrovato la verve, nello stesso tempo ha aggiunto tenuta fisica, disciplina tattica, ma c'è un talento innato anche dietro a questa squadra, ci sono grandi giocatori, grandi individualità. Uno per tutti è Shane Williams, un giocatore di taglia piccola, un'ala, un giocatore che potrebbe sembrare negato per quello che viene attualmente definito il kilo rugby, una disciplina che si basa molto sulle dimensioni fisiche. Eppure Shane Williams quest'anno è stato votato miglior giocatore dell'anno a livello internazionale. Il Galles, oltretutto, in autunno è stata l'unica squadra che ha saputo tenere testa alle grandi formazioni dell'emisfero sud che sono venute in tournée in Europa e ha strappato una vittoria per 21-18 all'Australia. Favoriti quindi d'obbligo. Giacomo, punti deboli del Galles che l'Italia potrebbe sfruttare? Punti deboli sulla carta non ce ne sono. Chiaramente l'Italia può contare su un confronto più equilibrato a livello di mischia, mentre i tre quarti, diciamo il reparto veloce del Galles è sicuramente superiore al nostro. Possiamo però farci forti di una certa tradizione. L'Italia è stata sconfitta pesantemente l'anno scorso in Galles, però nel 2006 a Cardiff pareggiò e nel 2007 a Roma riuscì addirittura a prevalere sui Dragoni. In quattro partite casalinghe l'Italia al Sei Nazioni ha vinto due volte con il Galles e, visto che questa volta giochiamo in casa, appuntamento a sabato 14 marzo, con un po' di ottimismo si può anche pensare di fare qualcosa di buono. E speriamo veramente sia così. Grazie a Giacomo Bagnasco. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Condannati in primo grado all'ergastolo i mandanti e gli esecutori dell'omicidio di Francesco Fortugno, il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, ucciso in un seggio delle primarie dell'Unione a Locri il 16 ottobre del 2005. Massima pena, dunque, per il killer Salvatore Ritorto e per Alessandro e Giuseppe Marciano, padre e figlio considerati i mandanti. I due sono stati però assolti dall'accusa di associazione mafiosa. Una forte ondata di maltempo sta colpendo l'Italia, anche se nelle regioni meridionali è prevista per oggi un po' di tregua dalle forti piogge. Nevica, come avete sentito poco fa, nella viabilità su gran parte delle regioni del nord, in Piemonte, Lombardia e Liguria. Flusso aereo ridotto negli aeroporti di Orio al Serio, di Malpensa e Linate, dove sono stati cancellati una serie di voli. Sono nel carcere di Velletri due degli arrestati per aver dato fuoco l'altra notte ad un immigrato che dormiva su una panchina della stazione di Nettuno sul litorale romano. Un terzo minorenne detenuto invece a Roma. Non è una questione di razzismo, dice il sindaco Alessio Chiavetta. Quello che noi abbiamo sperimentato ieri è stato proprio questo, la mancanza di rispetto della vita umana e il cercare emozioni a tutti i costi non avendo una risposta da chi magari dovrebbe darla. Il Dalai Lama, capo spirituale dei tibetani, è ricoverato in un ospedale di Nuova Delhi, in India, avrebbe accusato un forte dolore al braccio. Tremonti a Radio 24, ci vogliono più regole capaci di farci venire fuori dalla crisi. Questa è una crisi causata da troppo debito privato, ha detto il ministro. Pensare che se ne esca con più debito pubblico è sbagliato. La situazione delle banche è buona, dice il ministro. Il sistema italiano è vigilato dalla Banca d'Italia. La vigilanza della Banca d'Italia finora ci ha dato solo indicazioni positive e questo è positivo. Anche oggi centinaia di lavoratori inglesi manifestano davanti ai cancelli della raffineria Lindsey Oil a Grimsby e si fermano per 24 ore i lavoratori della centrale nucleare di Sellafield. Protestano contro il contratto a termine dato ad un centinaio di italiani della IREM per costruire un impianto. Ieri il premier Gordon Brown aveva detto che gli scioperi sono indifendibili. Le retribuzioni orarie a dicembre sono aumentate del 3,8% rispetto ad un anno prima. Nello stesso mese l'inflazione si era attestata al 2,2%. In media nel 2008 le retribuzioni sono cresciute del 3,5% rispetto all'anno precedente. Si tratta dell'incremento più forte dal 1997. Medio Oriente, la tregua sembra avvicinarsi, visto che un portavoce di Hamas ha detto che il movimento islamico è disponibile. Ci si riferisce alla tregua di un anno. Sul terreno però ancora violenze, lanci di razzi su Israele che risponde con una serie di raid. E andiamo a Londra, dunque, una Gran Bretagna sotto la neve, come vi abbiamo raccontato, si prepara ad affrontare una nuova giornata di proteste degli operai inglesi. Proteste che fanno seguito alla decisione della Total di affidare ad un'azienda italiana, la Irem di Siracusa, l'appalto per la costruzione di una piattaforma petroliera, e la Irem usa operai italiani. Cristina Balotelli ha intervistato uno dei lavoratori italiani che si trovano per ragioni di sicurezza in questo momento su una nave, il capo cantiere Daniele Gibilisco. La situazione è tranquilla. Stamattina ci sono stati dei picchetti di protesta alla raffineria, ma senza nessun segno di violenza o di insulto nei nostri confronti. Cerchiamo di stare un po' distanti dal luogo della protesta e aspettiamo che tra qualche giorno dovrebbe tutto finire e ritornare alla normalità. La nostra area è sorvegliata e pattugliata dalla polizia locale. Comunque la protesta è prettamente lavorativa, ripeto, non è contro di noi, non ci sono stati segni di violenza o di insulti e quindi dobbiamo dare atto che la manifestazione è molto civile. Essendo inseriti all'interno di una categoria di lavoro che qui sta soffrendo, ovviamente siamo additati, ma ritengo che già da oggi una delegazione del governo inglese si recherà nella raffineria per cominciare le trattative e speriamo che tutto si risolva nel giro di qualche giorno. Cioè, trattative per cosa? Noi non siamo al centro della discussione, non siamo coinvolti. Stanno cercando di capire quali sono i disagi espressi dai lavoratori locali e quali sono le proposte di risoluzione al problema. È anche abbastanza umano capire come sarebbe successa la stessa cosa in Italia. Sicuramente sì. Quindi noi siamo solamente per precauzione chiusi, tra virgolette, nella nostra accommodation, aspettando che la raffineria, la Total, ci dia indicazioni e che la situazione ritorni alla normalità e possiamo rientrare al lavoro con la tranquillità e la sicurezza di sempre. Quando voi vi spostate, comunque dovete essere scortati dalla polizia? Fino a ieri ci siamo spostati in pullman e abbiamo avuto il supporto della polizia. Devo dire che è stata comunque una precauzione, ma non abbiamo ricevuto minacce o segni di tensione o di nervosismo. Però ci sono stati 4 operai che hanno preferito tornarsene a casa. No, le persone che sono rientrate hanno avuto problemi personali. Ah, non c'entra con le proteste? No, non c'entra con le proteste. Noi abbiamo preso provvedimenti nei confronti delle 2 persone che sono state immortalate infelicemente in fotografia dal quotidiano locale. Ma le altre 2 persone sono rientrate per motivi personali. E su questo sentiamo l'editoriale del direttore del Sole 24 Ore, Ferruccio De Bortoli. La protesta contro la commessa assegnata a un'azienda italiana nella raffineria inglese di Lindsay è sempre più forte. Nuovi scioperi sono previsti oggi. Il premier Brown ha difeso le ragioni del mercato unico del lavoro, ma perde consensi, e il governo inglese è accusato di difendere poco i suoi operai. Faceva una certa impressione ieri vedere quegli operai siciliani quasi sequestrati su una nave in porto, impauriti e abbandonati a se stessi. Già il disagio di lavorare all'estero e neanche la libertà di uscire ed entrare in un pub. Che differenza con i tanti lavoratori inglesi di società che hanno vinto commesse un po' dappertutto in Italia, che sono accolti con simpatia senza che nessuno di loro sia accusato di portar via il posto ai propri connazionali. Ma questa è la faccia più dura del mercato unico europeo, della globalizzazione. Quando il lavoro comincia a mancare, scatta la tentazione di proteggersi. Una tentazione forte, ma del tutto inutile. Colpisce anche l'indifferenza italiana, e non solo del governo. Non abbiamo ascoltato finora dichiarazioni, nemmeno dai soliti intervistati dei telegiornali. Fosse stata bloccata la troupe dell'Isola dei Famosi, avremmo avuto più reazioni, anche dalla stampa. E la questione degli operai italiani in Gran Bretagna è riecheggiata ad un convegno sul lavoro organizzato dal CNEL a Roma, al quale ha partecipato anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Vincenzo Miglietta, stai seguendo i lavori per noi. Allora, Vincenzo, che cosa è emerso? Buongiorno, è così, le polemiche inglesi non potevano trovare platea più attenta oggi qui alla Camera, dove si è svolta la presenza delle più alte cariche dello Stato, l'iniziativa Il Lavoro che Cambia. A margine del convegno abbiamo avvicinato proprio il ministro del Welfare Sacconi, ascoltiamo. Ma credo che la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito dell'Unione è fuori discussione ed è un valore fondante dell'Unione stessa. Solo per i nuovi membri sono state consentite limitazioni di carattere transitorio per il lavoro dipendente e sono comprensibili. Invece per il resto possono essere anche comprensibili queste proteste, ma non assolutamente accoglibili. La risposta ovviamente deve essere anche quella di sostenere chi perde il lavoro nel suo reddito, nella sua capacità di migliorare le competenze, e soprattutto bisogna cercare di superare questa crisi. Sacconi dunque richiama la libera circolazione dei lavoratori in ambito europeo. Dal sindacato Angeletti Will commenta: le preoccupazioni di perdere il lavoro sono fondate e legittime, ma non è chiudendosi che si salvano i posti, anzi così si rischia che quelli incerti aumentino. Sul capitolo Il Lavoro che Cambia è intervenuto intanto il presidente della Camera. Secondo Fini le sfide per il futuro sono due: aumentare la produttività ma anche la sicurezza. No poi da Fini alla discriminazione dei lavoratori stranieri. Il presidente del CNEL Marzano ha ricordato invece come grazie all'introduzione negli ultimi anni di una maggiore flessibilità si siano creati oltre 3 milioni di posti di lavoro. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. E a proposito di lavoratori, ma soprattutto di imprese italiane che lavorano all'estero e con l'estero, è stato presentato questa mattina a Milano il rapporto Italia Multinazionale 2008. Ci spiega di tutto e di più il nostro Stefano Totoro. Sì, buongiorno, voi nostri ascoltatori, un rapporto dell'Istituto per il Commercio Estero. Da questo rapporto emerge un tasso di internazionalizzazione delle imprese italiane molto basso rispetto agli altri paesi europei, pari al 20% rispetto ad esempio al 40% della Spagna. Si evidenziano soprattutto il sistema poco innovativo delle imprese italiane e gli squilibri interni al nostro paese, come ad esempio la grande industrializzazione del nord contro i problemi del mezzogiorno. Se un'espansione c'è stata all'estero, lo si deve soprattutto al settore dei servizi, si pensa ad esempio alle banche italiane e al settore assicurativo che hanno investito molto in altri paesi. Quanto agli investimenti esteri, in Italia il quadro è diverso, ci sono delle difficoltà che le imprese estere incontrano, dovute sia alle infrastrutture sia all'apparato burocratico che rende difficile l'ingresso di capitali esteri nel nostro paese. Non si poteva non parlare anche della crisi economica, che l'ICE però considera in qualche modo anche un'opportunità, lo spiega il presidente Umberto Vattani. È proprio nei periodi di crisi che si riesamina la situazione nella quale ci si trova e si fanno piani per il futuro. Facciamo un esempio: noi non abbiamo un sistema italiano di grande distribuzione all'estero. Ebbene, in questo momento si possono fare investimenti all'estero estremamente vantaggiosi, dato il crollo dei prezzi in mercati per noi importanti, Stati Uniti, India, Cina e così via. La crisi attuale consente anche di concentrarsi di più sui settori che tireranno di più nei prossimi mesi. E adesso parliamo di musica, perché arrivano in Italia gli Oasis. Sono 5 le date nel nostro paese per la band dei fratelli Gallagher, che oggi esordisce al Dutch Forum di Milano, per poi toccare durante tutto febbraio anche Roma, Treviso, Bolzano e Firenze. Sono molti i nomi ai quali gli Oasis pagano pegno nel loro ultimo lavoro Dig Out Your Soul. Citiamo John Mayer, gli Stooges, i Doors, i Pretty Things e John Lennon, di cui si sente un brano di una vecchia intervista alla BBC nel singolo I'm Out of Time, scritta da Liam Gallagher. I contatti con Lennon e i Beatles passano anche dai leggendari studi di Abbey Road a Londra, dove l'album degli Oasis è stato registrato e dove i Fab Four crearono l'omonimo loro disco. Ma Liam Gallagher, proprio nel presentare The Gaucho Soul, ha decisamente rifiutato l'accostamento con il gruppo di Liverpool per rilanciare invece l'importanza di un gruppo come i Sex Pistols. Nel frattempo sembrano risolti i vecchi contrasti tra i fratelli Gallagher, contrasti che proprio a Milano nel 2000 avevano portato Noel a lasciare il gruppo durante la tournée arrivata nel capoluogo lombardo. Era toccato quindi a Liam salire sul palco senza il fratello caricandosi del peso della band. Basta litigi e scazzottate dunque e via a un nuovo tour mondiale, il più lungo della storia del gruppo che infatti durerà ben 18 mesi. Paolo Panceri, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste sono le notizie della giornata. Gli episodi di xenofobia sono sintomi allarmanti di tendenze diffuse. Le parole sono di poco fa del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, all'indomani dell'aggressione di Nettuno. Oggi la convalida dei fermi per i tre arrestati, fra cui un minorenne, che hanno confessato di aver dato fuoco ad un immigrato che dormiva su una panchina della stazione. Non è una questione di razzismo, dice il sindaco Alessio Chiavetta. Quello che noi abbiamo sperimentato ieri è stato proprio questo, la mancanza di rispetto della vita umana e il cercare emozioni a tutti i costi non avendo una risposta da chi magari dovrebbe darla. Condannati in primo grado l'ergastolo, i mandanti e gli esecutori dell'omicidio di Francesco Fortugno, il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, ucciso in un seggio delle primarie dell'Unione a Locri il 16 ottobre del 2005. Massima pena dunque per il killer Salvatore Ritorto e per Alessandro Giuseppe Marcianò, padre e figlio considerati mandanti. I due sono stati però assolti dall'accusa di associazione mafiosa. Una forte ondata di maltempo ha colpito l'Italia, anche se nelle regioni meridionali è prevista per oggi un po' di tregua dalle forti piogge, nevica su gran parte delle regioni del nord, in Piemonte, Lombardia e Liguria, flusso aereo ridotto negli aeroporti di Orio al Serio, Malpensa e Linate, forti difficoltà per strade e ferrovie. Tra 10 minuti i prossimi aggiornamenti sulla situazione della viabilità. Il Dalai Lama, capo spirituale dei tibetani, è ricoverato in un ospedale di Nuova Delhi, in India, avrebbe accusato un forte dolore al braccio. Tremonti a Radio 24, ci vogliono più regole capaci di farci venire fuori dalla crisi, c'è troppo debito privato. Ha detto il ministro, pensare che se ne esca con più debito pubblico è sbagliato. Sul tavolo di oggi pomeriggio fra governo e regioni sul finanziamento degli ammortizzatori sociali, Tremonti dice la strada si troverà. Anche oggi centinaia di lavoratori inglesi manifestano davanti ai cancelli della raffineria Lindsay Oil a Grimsby, protestano contro il contratto a termine dato ad un centinaio di italiani della IREM per costruire un impianto. Ieri il premier Gordon Brown aveva detto che gli scioperi sono indifendibili, ma sentiamo il capocantiere della IREM a Grimsby, Daniele Gibilisco. Stamattina ci sono stati dei picchetti di protesta alla raffineria, ma senza nessun segno di violenza o di insulto nei nostri confronti. Già da oggi una delegazione del governo inglese si recherà nella raffineria per cominciare le trattative e speriamo che tutto si risolva nel giro di qualche giorno. In Medio Oriente la tregua sembra avvicinarsi, un portavoce di Hamas ha detto che il movimento islamico è disponibile. Sul terreno ancora violenze, lanci di razzi su Israele che risponde con una serie di raid. La crisi si combatte con le regole, non aumentando il debito pubblico. Lo ha ribadito il ministro dell'economia Giulio Tremonti parlando questa mattina nella trasmissione di Giuliano Ferrara, Parliamo con l'elefante su Radio 24. Sentiamo allora Tremonti. Combattere la droga, l'alcol con l'alcol è sbagliato. Questa è una crisi che nel mondo, in America, in Europa è evidentemente causata da troppo debito privato. Pensare che se ne esce con più debito pubblico è sbagliato dappertutto. Io in tutte le sedi internazionali, e devo dire di questi tempi con un crescendo di attenzione, di rispetto e di ascolto, dico che la soluzione non è nel mettere nell'economia più capitale drogato dal debito, ma più regole capaci di farci venire fuori dalla crisi. E Tremonti ha parlato anche della vicenda dell'utilizzo dei fondi europei da parte delle regioni per gli ammortizzatori sociali. Il governo appunto ha chiesto alle regioni di usare i fondi europei, 2 miliardi e 600 milioni di euro. Su questo i presidenti non sono completamente d'accordo. Oggi ci sarà un incontro per definire meglio le cose, ma intanto sentiamo il ministro. Non vogliamo togliere i soldi alle regioni, anzi vogliamo focalizzare su un'area di bisogno, di sofferenza che la crisi ci presenterà. Io sono convinto del fatto che avendo ben chiare anche le regioni, come dire, l'intensità del cambiamento, la intensità della crisi ti pone problemi che non sono solo di formare uno per spostarlo da un settore all'altro, e se anche l'altro non va bene, questo è il punto. Quindi io penso che la strada si troverà e sarà utile. Noi non possiamo fare più spesa pubblica di quella che ci è consentita. Io dico solo, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E come dicevamo, i presidenti delle regioni non sono molto d'accordo con Tremonti sull'idea di utilizzare appunto questi fondi europei per gli ammortizzatori sociali. Sentiamo come la pensa il presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, al microfono di Valentino Furlanetto. La posizione nostra è quella di chi si rende ben conto della pesantezza della situazione, quindi le regioni sono pronte a fare la loro parte, però l'accordo deve essere trilaterale, deve coinvolgere anche l'Unione Europea, dalla quale il governo attende una risposta per sapere se alcuni fondi europei sono utilizzabili per gli ammortizzatori sociali. Io insisto nel sottolineare che gli ammortizzatori sociali devono essere non soltanto un ristoro dal punto di vista del reddito, ma anche un'occasione per formare di più, in modo che il lavoratore che rinuncia al proprio lavoro e in cassa integrazione deve però poter migliorare la propria formazione e rientrare nel ciclo produttivo con maggiori conoscenze e quindi con maggiori opportunità di lavorare. Ma restiamo in Lombardia, perché c'è qualcun altro, e non è un attore propriamente istituzionale, che si inserisce nel sostegno, chiamiamole così, alle vittime della crisi. Sì, ieri il segretario della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Mariano Crociata, ha fatto sapere che anche la CEI lancerà un fondo nazionale, in questo caso quindi riguarderebbe tutte le regioni italiane, anticrisi, a sostegno appunto delle famiglie in difficoltà. La decisione è stata presa dal Consiglio Permanente della CEI della scorsa settimana e domani verrà illustrata a Roma. Ma come dicevi tu, Simone, c'è qualcuno che ha già anticipato di fatto questa intenzione della CEI? Sì, è stata la diocesi di Milano con un annuncio arrivato da Dionigi Tettamanzi. Ebbene, sentiamo. L'annuncio, ricorda il direttore della Caritas Ambrosiana, Don Roberto D'Avanzo, aveva sorpreso anche i collaboratori più stretti del cardinale. La notte di Natale, l'arcivescovo di Milano, Dionigi Tettamanzi, aveva comunicato la decisione di stanziare 1 milione di euro per far partire un fondo a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi economica. Un mese dopo, sono tante le diocesi italiane che hanno seguito l'esempio milanese. E ora anche la Conferenza Episcopale è pronta a far partire un piano straordinario a supporto delle iniziative diocesane. La Curia di Milano ora sta definendo il modello operativo, racconta Don D'Avanzo. Tendenzialmente saranno le parrocchie a intercettare le famiglie bisognose attraverso strutture come i nostri centri di ascolto di Caritas, ma anche i patronati ACLI, da dove ci sono. E le poche risorse che riusciremo a mettere a disposizione le offriamo a quelle famiglie che magari non riusciranno ad avvalersi di altre strutture, strumenti anticrisi che gli enti locali stanno individuando. Un'azione di supplenza dunque là dove lo Stato non arriva, a beneficio dei precari senza cassa integrazione o degli artigiani in difficoltà. Per la Chiesa di Milano l'iniziativa deve anche accendere l'attenzione delle comunità locali, delle parrocchie, su temi in passato un po' trascurati, come la sobrietà e la solidarietà, anche perché la crisi è molto vicina. Ci aspettiamo che l'ondata di piena possa verificarsi entro la metà di questo anno. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di contributi del welfare, Giulia Crivelli, chi è che ne parla oggi sui giornali stranieri? Buongiorno, è l'apertura del New York Times che ha fatto un'analisi molto dettagliata con tanto di mappa interattiva per chi la volesse vedere sul sito su come si stanno muovendo i vari stati e si scopre che le misure di welfare, cioè di sussidio ai redditi, sono diminuite nonostante in tutti gli stati siano aumentati i disoccupati, quindi sono aumentate le persone che avrebbero bisogno di queste misure. Il problema è un po' quello che diceva Tremonti, cioè le persone hanno bisogno di soldi ma in questo caso gli stati americani, cioè l'equivalente delle nostre regioni, non ne hanno e quindi sono costretti a tagliare le misure di welfare. Se la crisi perdurerà, diciamo, scrive il New York Times, probabilmente bisognerà rivedere tutti questi meccanismi e Obama dovrà in qualche modo aprire la borsa della spesa federale anche per aiutare i singoli stati ad aumentare il welfare, perché ricordiamo negli Stati Uniti non esiste l'equivalente della nostra cassa integrazione, quindi se uno perde il lavoro è sostanzialmente privo di fonti di reddito. Sì, riflessioni, Giulia, che sembrano in qualche modo confermare quel che poi è emerso alla fine dal vertice di Davos, con questo con l'atteggiamento nei confronti del sistema europeo di welfare un po' più morbido, ecco, mettiamola così. Senti, Giulia, questioni di crisi sempre, però in questo caso di Detroit, delle aziende americane dell'auto. Business Week fa un'ipotesi affascinante, o meglio un paragone affascinante. Sì, molto divertente, con l'ironia poi che sappiamo che proprio poche ore fa Google ha avuto un grosso problema, però è durato poco, quindi, o comunque l'ha risolto subito. Però il titolo di Business Week è Google potrebbe riparare Detroit. È un lunghissimo articolo di Jeff Jarvis, che ha scritto un libro su Google, dove spiega che le aziende dell'industria automobilistica hanno proprio un problema di modello di pensiero vecchio e quindi dovrebbero imparare da Google, soprattutto in fatto di comunicazione con i loro clienti, oppure per esempio potrebbero imparare a mettere sul mercato delle versioni beta delle macchine, come fa Google con i suoi programmi, con le aggiunte al suo motore di ricerca. I clienti potrebbero dire questo va, questo non va, e si potrebbe correggere in corsa. Ma è soprattutto un atteggiamento di pensiero quello che secondo Jarvis dovrebbero avere le industrie dell'auto, di cercare appunto di, come dicono gli americani, think out of the box, cioè riuscire a pensare in modo nuovo, perché così come sono, dice Jarvis, le macchine gli americani non le vogliono più. Giulia, andiamo in Spagna, perché gli spagnoli sono nuovamente felici dal punto di vista sportivo, sembra che da un anno a questa parte non ne sbaglino veramente una. C'è una bellissima foto su El País di Rafa Nadal che abbraccia un disperato Federer, che addirittura ha pianto perché è stato sconfitto in Australia per l'ennesima volta da Rafa Nadal, che è ormai saldamente al primo posto nella classifica mondiale, e però appunto sembra che ci sia una grande, sostanzialmente grande felicità per gli spagnoli, che titolano Nadal si ingigantisce la leggenda, però anche una grande lealtà tra questi due grandissimi sportivi. È proprio una bella foto, un bel simbolo dei valori veri dello sport. Grazie anche per oggi, Giulia Crivelli, e adesso passiamo a celebrare un anniversario. 30 anni fa moriva un mito della musica. Una carriera brevissima con i Sex Pistols e la morte precoce per overdose avvenuta il 2 febbraio del 79 a New York. 30 anni dunque dalla morte della più leggendaria icona del punk, Sid Vicious. Quando se ne andò aveva soltanto 21 anni. A lui il Museo del Cinema di Torino ha voluto dedicare un omaggio con un film che racconta la sua vita e la sua storia d'amore con la fidanzata Nancy. I love the Sex Pistols. Una vita davvero spericolata la sua. Eroinomane, è finito più volte in carcere, anche poco prima dell'overdose fatale, quando venne arrestato in quanto principale sospettato per l'omicidio della sua compagna Nancy nell'ottobre del 1978 a New York. Ma Sid Vicious si è sempre dichiarato innocente, una tesi sostenuta anche dal regista Alan Parker nel suo documentario in uscita sugli schermi inglesi il 6 febbraio prossimo. Dopo l'esperienza con i Sex Pistols, che ha realizzato un unico album, Nevermind the Bollocks, ancora oggi tra i più venduti in tutto il mondo, il tentativo di una carriera solista che non decollò mai. La cosa più memorabile resta la sua versione dissacrante di My Way di Frank Sinatra. Eppure Sid Vicious continua ad essere un mito per molti. Perché? Lo abbiamo chiesto a Stefano Boni, responsabile della programmazione per il Museo del Cinema di Torino. Il punk si identifica con i Sex Pistols, anche se poi molti altri gruppi, anche più importanti, hanno arricchito questa esperienza musicale. Ovviamente, come sempre succede, la storia del rock è costellata anche da tragiche morti, e quella di Sid Vicious è stata particolarmente sofferta. Adriana Fracchi, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Gli episodi di xenofobia sono ormai sintomi allarmanti di tendenze diffuse, lo dice il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano all'indomani dell'aggressione di Nettuno, oggi la convalida dei fermi per i tre arrestati, fra cui un minorenne, che hanno confessato di aver dato fuoco ad un immigrato che dormiva su una panchina della stazione. Condannati in primo grado all'ergastolo mandanti ed esecutori dell'omicidio di Francesco Fortugno, il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, ucciso il 16 ottobre del 2005 a Locri. Massima pena dunque per il killer Salvatore Ritorto e per Alessandro e Giuseppe Marcianò, padre e figlio, considerati i mandanti. Una forte ondata di maltempo ha colpito l'Italia, anche se nelle regioni meridionali è prevista per oggi un po' di tregua. Nevica su gran parte delle regioni del nord, in Piemonte, Lombardia e Liguria. Come avete sentito, forti disagi sulle strade per i treni e per gli aerei. Tremonti a Radio 24, ci vogliono più regole capaci di farci venire fuori dalla crisi. C'è troppo debito privato, ha detto il ministro. Pensare che se ne esca con più debito pubblico è sbagliato. Sul tavolo di oggi pomeriggio fra governo e regioni sul finanziamento degli ammortizzatori sociali, Tremonti dice la strada si troverà. Moratoria per i titoli tossici, dice ancora Tremonti, sentiamolo. Io credo che questa sia la tecnica sbagliata, insostenibile, perché comunque vuol dire che tu a questa realtà gli dai comunque un senso, un valore. Io credo che la cosa migliore sia staccare la spina, cioè sospenderli per 50 anni, per 30 anni, per 10 anni, per 20 anni. Evidentemente crei dei problemi, delle asimmetrie, chi ci guadagna, chi ci perde, ma credo che il rischio connesso a queste anomalie sia inferiore al rischio immanente e permanente di lasciarli in circolazione. Perfetto. Anche oggi centinaia di lavoratori inglesi manifestano davanti ai cancelli della raffineria Linz di Oil a Grimsby e si fermano per 24 ore. I lavoratori della centrale nucleare di Sellafield protestano contro il contratto a termine dato ad un centinaio di italiani della Iren per costruire un impianto. Ieri il premier Gordon Brown aveva detto che gli scioperi sono indifendibili. Il capo cantiere della Iren a Grimsby, Daniele Gibilisco. Stamattina ci sono stati dei picchetti di protesta alla raffineria, ma senza nessun segno di violenza o di insulto nei nostri confronti. Già da oggi una delegazione del governo inglese si recherà nella raffineria per cominciare le trattative e speriamo che tutto si risolva nel giro di qualche giorno. Le retribuzioni orarie a dicembre sono aumentate del 3,8% rispetto ad un anno prima. Nello stesso mese l'inflazione si era attestata al 2,2%. In media nel 2008 le retribuzioni sono cresciute del 3,5% rispetto al 2007. Non sarebbe grave, il Dalai Lama, capo spirituale dei tibetani, è stato ricoverato in un ospedale di Nuova Delhi, in India, avrebbe accusato un forte dolore al braccio. Andiamo ora in Medio Oriente. La notizia che fonti ufficiose avevano diffuso ieri è stata confermata da un portavoce di Hamas. L'organizzazione che governa i palestinesi è pronta ad una tregua di un anno con Israele. Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore. Qual è la situazione sul terreno e quali sono a questo punto le prospettive reali di una tregua? La situazione sul terreno è molto strana, perché ancora stamattina Israele ha fatto un altro raid estremamente mirato per colpire un palestinese e ne ha feriti altri tre. Continuano queste operazioni e al tempo stesso continua anche la diplomazia, del resto è sempre stato così anche nei giorni peggiori del conflitto. Al Cairo i negoziatori stanno cercando di raggiungere una tregua che duri almeno un anno, fra un anno e mezzo, e sembra che Hamas sia disposto ad accettare questa tregua mediata dall'Egitto. Ma sul campo gli israeliani continuano le loro operazioni anche perché alcuni gruppi minoritari che non si riconoscono in Hamas ma che comunque sono armati continuano a lanciare appunto sin da ieri razzi e colpi di mortaio su Israele. Quindi la situazione resta sempre fragile, anche se oramai sembra che comunque un accordo vero, un accordo stabile sia praticamente alle porte, se non oggi forse già domani potrebbe essere raggiunto. Grazie Ugo Tramballi in collegamento con noi da Gerusalemme. Noi continuiamo a parlare della situazione a Gaza, Alessandra. Sì, continuiamo a parlarne perché iniziano a sorgere dubbi da parte dei palestinesi riguardo Hamas. Alcune organizzazioni chiedono di indagare su omicidi di detenuti compiuti nelle carceri appunto di Hamas. Ce ne parla Adib Fateh Ali. A Gaza, durante e dopo l'offensiva militare israeliana del mese scorso, decine di palestinesi detenuti nelle carceri di Hamas sono stati torturati, gambizzati e uccisi. Ad affermarlo non è Israele, ma quattro organizzazioni palestinesi per i diritti dell'uomo che operano nella striscia di Gaza. La TV saudita Al-Arabiya pubblica il comunicato firmato dalle ONG palestinesi in cui si chiede conto al movimento radicale di 27 omicidi di persone scomparse e di un generale peggioramento dello Stato di diritto nella striscia governata da Hamas dopo il golpe del giugno 2007. La TV araba riporta le prime timide ammissioni di un portavoce del Ministero degli Interni di Hamas che ha riconosciuto l'esistenza del fenomeno, parlando però di traditori scappati dal carcere. Adil Fatahali, GR24, Il Sole 24 Ore. E in chiusura, come ogni lunedì, andiamo ad ascoltare i consigli per il pranzo del nostro gastronauta Davide Paolini. Per mezzogiorno di cuoco oggi non vi segnalerò un indirizzo né un luogo, ma vi darò un consiglio. Bene, c'è sempre fretta, soprattutto a mezzogiorno, e c'è anche la scusa di mangiare magari un panino veloce o altre cose perché non c'è tempo. E allora perché non tornate a casa, vi comprate una confezione di maccheroncini di Campofilone che si cuociono molto molto velocemente, 90 secondi, una salsa di pomodoro, una spruzzata di parmigiano e voilà, in quasi 2 minuti e 30 il pranzo è pronto e non ci sono più scuse per la perdita di tempo o per la poca velocità. Tornate a casa e mangiate in questa maniera, mangerete meglio, spenderete meno. Buona giornata dal gastronauta. Ed è tutto per questa edizione del GR24 Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia e da Alessandra Tedesco, coordinata da Daniele Biacchessi e con in regia Filippo Aureggi. Come sempre, se volete scriverci, l'indirizzo è extralarge@radio24.it. Se volete invece riascoltare questa puntata, potete trovarci naturalmente sul nostro sito www.radio24.it, dove trovate naturalmente tante altre cose. Il prossimo giornale radio è alle 15, noi ci risentiamo domani alle 13. La linea va ad A Tempo di Sport. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.